Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. Sorridi anche se il tuo cuore soffre, sorridi anche se è ferito. Quando ci sono nuvole nel cielo, puoi farcela se sorridi. Un messaggio di speranza in queste parole scritte nel 1954 da John Turner e Jeffrey Parsons sulle meravigliose note che Charlie Chaplin compone nel 1936 come tema della colonna sonora del suo capolavoro, il film Tempi moderni. If you just smile. Sono centinaia i cantanti che dal 1954 ad oggi interpretano questa stupenda canzone che è considerata uno degli standard di maggiore successo nella storia della musica moderna. Eppure tutti concordano nel pensare che l'interpretazione più toccante, quella che segna maggiormente la storia di questo brano, è proprio la prima, quella del cantante che la lancia e che ne fa una hit mondiale. Forse anche perché l'interprete queste parole le sente particolarmente vicine. Nella sua vita breve e travagliata, lui ha sempre sorriso. Lo abbiamo appena sentito, la sua voce è velluto fatto suono, è una carezza che accompagna l'ascolto e che la rende indimenticabile, così come indimenticabile è lui stesso. Nat King Cole. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable. Assolutamente indimenticabile. È Nat King Cole, il protagonista della puntata dei Magnifici Destini di oggi. Parleremo della sua vicenda, degli incredibili incontri che lo hanno portato ad essere una leggenda immortale. Lo vedremo anche sotto una luce diversa da quella a cui siamo abituati. Non solo come cantante, ma anche come pianista eccezionale. Parleremo della sua voce suadente, del suo stile inconfondibile, ma soprattutto del suo sorriso. Quello che non manca mai, non esiste foto, registrazione, perfino ritratto di Nat King Cole nel quale il grande interprete non stia sorridendo. Eppure la vita per lui non è affatto semplice, sin dalla prima infanzia. Lo racconta lo scrittore statunitense Daniel Mark Epstein nella sua recente biografia del cantante. Nathaniel Coles era nato a Montgomery, in Alabama, nel 1919. Quello non era un bel posto per la gente di colore. Il razzismo era violento. Per questo, nel 1923, il padre Edward, un pastore della Chiesa Battista, aveva deciso di unirsi al grande esodo di famiglie nere che lasciavano il Sud per andare a Chicago. Sono gli anni del proibizionismo, gli anni di Al Capone. Chicago è una città corrotta e violenta, ma i neri non sono presi di mira come in Alabama e la loro comunità è molto grande. Occupano un intero quartiere, Bronzeville. Tutto sommato si può dire che gli afroamericani a Chicago ci stiano bene. E poi hanno la musica. Fats Waller, Jelly Roll Morton, Louis Armstrong, Earl Hines. Sono questi gli artisti che si possono facilmente ascoltare negli oltre 30 jazz club disseminati in città. I neri si affollano in questi locali, li riempiono fino all'inverosimile, ci passano le nottate. È il loro territorio e il jazz è la colonna sonora delle loro vite. I Coles ci vivono nella musica. Il padre canta i gospel nella sua chiesa e la madre suona l'organo divinamente. È da loro che Nat apprende i primi rudimenti di quella che sarà per tutta la sua vita la sua professione, la sua grande passione. Una sera, avrà una decina d'anni, sta ascoltando la radio. Stanno trasmettendo un pezzo al pianoforte. Quel pianista sta volando sulla tastiera. Nat si immagina le sue dita agili che sembrano farfalle sui tasti. Quella cascata di note è incredibile, gli sembra di sognare. Ma improvvisamente la radio si ammutolisce. Non c'è verso di farla riprendere, si deve essere rotta. Nat è disperato. Quel pezzo era così bello, voleva sentirlo fino in fondo e poi ancora, ancora. Ma poi ha un'idea. Corre fuori in cortile ed ecco la musica per magia ritorna. È anche più forte di prima, moltiplicata da decine di radio che in tutte le case sono sintonizzate su quello stesso canale. Tutti a Bronzeville ascoltano il jazz. Solo alcuni anni dopo, Nat scoprirà il nome di quel pianista favoloso, Earl Hines. Verso i 14-15 anni, scivolavo fuori di casa alla sera. Me ne stavo fuori dai club ad ascoltare la musica che arrivava fino in strada. C'erano Fats Waller, il grande Louis Armstrong, e un pianista che suonava sempre con lui. Era semplicemente fantastico. Non avevo mai sentito suonare il piano così. Si chiamava Earl Hines. Hines ha 21 anni quando conosce Louis Armstrong, che di anni ne ha 24. I due diventano amici e suonano insieme nei locali di Chicago, anche in quello di Al Capone. Sono incredibilmente affiatati e Hines modifica lentamente il suo modo di suonare. Arriva a concepire il suo strumento come una sorta di diramazione della tromba di Lewis. Quando Nat lo sente, ne è letteralmente affascinato. Si esercita, studia, prova sul piano di sua madre, non sente la fatica, anche se suona per giornate intere. Lui vuole diventare proprio come Earl Hines, un virtuoso. E a quanto pare ci riesce. Glielo dicono tutti. It is better to be on the shelf. Just like a hermit living in a cave. You don't get much loving, but the dough you save makes it better to be by yourself. Le doti naturali sono un regalo divino, usano dire i neri di Bronzeville. E Nat Coles ha indubbiamente ricevuto un grande regalo dal Signore. Sa suonare il pianoforte in maniera eccezionale, senza avere mai preso lezioni. Ma è anche vero che la natura va aiutata. E Nat ammetterà anni dopo che se non avesse sentito Earl Hines, non si sarebbe mai nemmeno sognato che il pianoforte potesse essere suonato in quella maniera. E lui, il primo magnifico destino nella vita di Nat King Cole, Earl Hines. È ascoltando lui che il giovane decide. Farà il pianista. Prende anche lezioni di musica classica perché si vuole preparare bene. Suona Bach, Beethoven, Rachmaninoff, ma soprattutto adora il jazz. Ci vuole una buona dose di faccia tosta e tanta bravura per fare quello che fa una sera. Si presenta in uno dei tanti club di Chicago dove sa che suonerà Hines. Ha solo 16 anni, ma tanta consapevolezza del proprio potenziale. Earl era lì a provare. Pensai che tanto non perdevo niente e al massimo mi avrebbe cacciato via. Così gli dissi che suonavo il piano anch'io e che avevo deciso di suonarlo dopo aver ascoltato lui. Beh, mi fece sedere al suo posto. Mi disse di suonargli qualcosa e io andai giù bello pesante con i miei virtuosismi. Quando smisi mi disse che se volevo potevo restare con loro quella sera. Nat suona con il suo idolo Earl Hines. Su quello stesso palco, poco dopo, salirà Louis Armstrong. È pazzesco a pensarci. Anche se gli capita solo un paio di volte questa incredibile fortuna, è sufficiente per fargli capire quello che davvero vuole. E quel suo sorriso che le difficoltà di una vita non proprio agiata non gli spengono mai, questa volta ha una motivazione reale. Nat si dà da fare e ben presto forma un trio con due amici. E quando deve scegliere il nome del gruppo, ha un'intuizione geniale. C'era quella vecchia canzoncina per bambini, Old King Cole, la storiella di un re bonario e pasticcione. Mi era simpatico. Così, visto che io mi chiamo Coles, pensai di togliere una S al mio cognome. Suonava bene. Nat King Cole. È nato così. I Il King Cole Trio, composto da Nat al piano, Oscar Moore alla chitarra e Wesley Prince al contrabbasso, va davvero forte. I tre sono affiatati nella vita privata come sul palco e iniziano a farsi conoscere in giro. La loro base è Long Beach, in California, dove suonano in diversi club e partecipano anche a numerosi show di radio locali. Il loro è un genere molto particolare, quasi unico in quegli anni, che si contrappone a quello delle grandi band con decine di elementi e multifiati, alla Louis Armstrong per intenderci. Il King Cole Trio è una novità nel panorama musicale della metà degli anni 30. Ogni tanto canticchiano anche. Your skin looks slightly pat, so I'll dig you later, bud. But some solid, potato salad, solid. Ma per lo più suonano. E come suonano? Nat è un vero virtuoso del pianoforte. Il suo stile è davvero innovativo. Sulla scia del grande Earl Hines usa la tastiera a modo suo. Intanto non sta seduto di fronte al piano, ma girato verso il pubblico, con le lunghe gambe accavallate. Guarda sempre la platea sorridendo, mentre le mani dalle dita affusolate volano sui tasti per conto loro, come non facessero parte di lui. E poi, spesso e volentieri, la mano sinistra scavalca la destra e trasforma il suo suonare in uno spettacolo nello spettacolo. La figlia Natalie, anche lei una bravissima cantante, ricorda questo aspetto del carattere di suo padre. Sperimentava sempre. Non si smetteva mai di provare. Non aveva paura di cambiare il modo di fare le cose, per essere innovativo, diverso. Questo per me era mio padre. Al di là della sua eleganza, del suo essere sofisticato, della sua incredibile bravura, era un innovatore. Il King Cole Trio sta diventando davvero famoso. Nel 38, Nat, Oscar e Wesley si trasferiscono a Los Angeles, dove partecipano anche a diverse trasmissioni radiofoniche della NBC. Ma cosa succede? Perché qualcosa deve capitare a un certo punto, visto che oggi Nat King Cole è conosciuto in tutto il mondo come uno dei più grandi cantanti di tutti i tempi e non come pianista. In effetti accade qualcosa di straordinario. Una sera il trio sta suonando come al solito in un club di Los Angeles. C'è una gran folla e Nat con il suo gruppo sta proponendo tutto il suo repertorio musicale. Il successo è come sempre strepitoso, ma tra il pubblico c'è qualcuno che non è affatto contento. C'era un tizio che era ubriaco fradicio. Ogni volta che iniziavamo un pezzo sbraitava qualcosa, non si capiva bene cosa. Ce l'aveva con noi. Poi si avvicinò al palco e disse che era stanco di sentire solo suonare, che voleva una canzone. Io non ero un cantante, anzi. Noi tre canticchiavamo qualche ritornello di qualche pezzo, tanto per divertirci. Ma non eravamo di certo cantanti professionisti. Ma quella volta non so che mi prese. Invece di dirgli di no, partii con la mia canzone preferita. A pair of eyes that are brighter than the summer skies. When you see them, you realize why I love my sweet Lorraine. Now when it's raining, I don't miss the sun. Sweet Lorraine, uno standard jazz del 1928. Non sono in molti a conoscerla, è anche un pezzo datato a più di 10 anni, ma a Nat piace molto e così la canta. Vuole semplicemente fare contento quell'ubriaco e soprattutto evitare che disturbi ancora la serata. Non pensa certo che quella sua interpretazione, nata del tutto casualmente, sia destinata a stravolgere completamente la sua vita di lì a poco. Quello di cui si rende conto immediatamente, però, è che non deve cantare poi così tanto male. Il pubblico va addirittura in visibilio per lui. Quella sua performance può essere considerata a tutti gli effetti l'inizio della sua sfolgorante carriera di cantante. C'è qualcuno che lo ascolta e che cambierà il suo destino. Il suo nome è Otis Renee. E pensare che questo signore è un farmacista di New Orleans. The folks are crooning, soft and low. You needn't tell me, boy, because I know, yes. When it's sleepy time down south. When it's sleepy time down south. Quando Louis Armstrong sente questa canzone, se ne innamora letteralmente. Diventa uno dei suoi cavalli di battaglia e la suonerà diverse centinaia di volte nel corso della sua lunga carriera. e pensare che l'hanno scritta due fratelli, Leon e Otis Renee, che non sono affatto musicisti, hanno una farmacia in Louisiana. Il successo di questa canzone però consente loro di trasformare quella che è una passione di sempre in un lavoro. I fratelli Renee fondano la Excelsior Records e quando Otis sente cantare Nat King Cole non ha dubbi. Quel ragazzo sarà anche un pianista favoloso, ma lo strumento che suona meglio sono le sue corde vocali. Insomma, io non ero proprio un cantante, ma venne da me Otis Renee che mi disse: «Bene, anch'io sono un musicista, eppure la mia canzone è il cavallo di battaglia del grande Louis Armstrong». Il suo ragionamento non faceva una piega. Poi mi disse che aveva scritto un'altra canzone, si intitolava I'm Lost. L'aveva data ad un'altra orchestra, quella di Benny Carter, ma non aveva avuto un grande successo. Mi disse che io l'avrei trasformata in una hit. Mi dispiaceva dirgli di no. Lui ci credeva proprio e così la cantai. I'm lost, I'm like a king without a throne. I'm lost, just like a dog without his bone. I'm walking round in circles doing things I shouldn't do. That's how much I'm lost without you. Bello, elegantissimo, di gran classe. Nat King Cole è un vero re mentre canta questa stupenda canzone. Chi lo ascolta non può che rimanerne affascinato. La sua voce è una dote naturale, perfettamente intonata, così morbida, vellutata. A lei fa da contrappunto il pianoforte, che Nat suona con la sua incredibile maestria. Il risultato è qualcosa di strabiliante che diviene immediatamente un successo senza pari. Se il King Cole Trio aveva già un notevole seguito, qui si parla di qualcosa di completamente differente. Nat King Cole diventa una star e il suo sorriso ammalia e allieta tutta l'America. Un ruolo importante, soprattutto nel momento storico che il paese sta attraversando. È infatti scoppiata la Seconda Guerra Mondiale. Il grande cantante Harry Belafonte ricorda il ruolo fondamentale di Nat. Cole era stato riformato. Non era proprio perfetto, aveva i piedi piatti. A parte gli scherzi, pur non essendo al fronte, ci aiutò moltissimo. Io ho servito nelle forze armate degli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale e vi assicuro che ogni volta che sentivamo Straighten Up and Fly Right di King Cole Trio, ci gasavamo. Anche se non può difendere il proprio paese con la divisa addosso, Nat King Cole serve la nazione come meglio sa fare, cantando. Il trio si è dovuto adattare alla nuova situazione. Wesley Prince deve partire per il fronte e viene sostituito da Johnny Miller e poi da Charlie Harris. Ma la sostanza non cambia. Sotto la guida di Nat Cole, che sa tenere uniti gli amici e nonostante il conflitto che si fa sempre più terribile, loro continuano a gasare i soldati al fronte con le loro canzoni. E Nat, non contento di essere un favoloso pianista e un grandissimo cantante, si mette anche a scrivere una canzone per i soldati, dando vita a quello che diviene uno dei suoi più famosi cavalli di battaglia, Straighten Up and Fly Right. A buzzer took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The buzzer tried to throw the monkey off his back, but the monkey grabbed his neck and said, "Now listen, Jack. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top." I magnifici destini. Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Il protagonista dei Magnifici Destini di oggi è uno degli artisti più popolari del panorama musicale mondiale, Nat King Cole. Famosissimo specialmente negli anni 50 e 60, Cole è decisamente più conosciuto come cantante swing, anche se in realtà la sua carriera inizia come pianista jazz. Influenzato dal grandissimo Earl Hines, il pianista di Louis Armstrong, con il quale ha la fortuna di suonare in alcune occasioni, Nat ha una maniera tutta sua, particolarissima e unica di sedersi alla tastiera, di far scivolare le dita sui tasti, di creare accordi improvvisati. E probabilmente avrebbe proseguito la sua carriera come favoloso pianista jazz se non si fossero scoperte per puro caso le sue incredibili doti di cantante. Determinante è l'incontro con il discografico Otis Renee, grazie al quale diventa un cantante professionista. L'America è appena uscita dal secondo conflitto mondiale. La gente ha voglia di pace, ha voglia di sognare e torna a scoprire i sentimenti. I love you and you alone were meant for me. Please give your loving heart to me and say we'll never part. Nat King Cole incarna appieno la voglia di pace e serenità del pubblico del dopoguerra. Con il suo modo così intimo e appassionato di cantare e quella voce calda e avvolgente, riesce perfino a unire gli animi. Bianchi e neri non fanno differenza. Lo amano tutti e si ritrovano nella sua musica. Il suo successo attira i dirigenti della grande Capitol Records, la casa discografica di Benny Goodman, Miles Davis, Frank Sinatra, Judy Garland, solo per citare alcuni degli artisti della sua scuderia. Con la Capitol, Nat King Cole realizza i suoi più grandi successi. Uno dei primi è Nature Boy, una ballata scritta da un personaggio molto strano, Eden Abetz, una via di mezzo fra un hippie e un santone. Nature Boy è la storia della mia vita. Sono nato con l'amore per la natura e il desiderio di trovare Dio. Sono arrivato a considerare la natura come una grande sinfonia. È l'amore il motivo di un concerto. Così un giorno ho sentito nascere dentro di me una melodia. They say he wandered very far, very far over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. La versione di Nat King Cole del brano di Abetz è talmente meravigliosa che in un solo mese vende 1 milione di copie. Per l'epoca, parliamo del 1948, è un evento eccezionale. La Capitol Records guadagna una fortuna, 2,5 milioni di dollari all'anno, tanto che la sua sede a Hollywood, disegnata dall'architetto Welton Becket, considerata il primo edificio a pianta circolare mai costruito, è anche chiamata The House That Nat Built, la casa che costruì Nat, a causa degli enormi guadagni che il cantante porta alla casa discografica. Dopo Nature Boy e la meravigliosa Unforgettable, Nat triplica il successo con un'altra fantastica hit, Too Young. Too young to really be in love. They say that love's a word we've only heard, but can't begin to know the meaning of. La vita di Nat King Cole non è però sempre così rosea come parrebbe. Si verificano alcuni fatti che non giustificano quel sorriso che lui mostra sempre inalterato. Quando Nat si trasferisce con la moglie e i figli nel quartiere residenziale di Hancock Park a Los Angeles, abitato solo da bianchi, alcuni membri del Ku Klux Klan incendiano delle croci di legno nel suo giardino. La moglie, Maria Ellington, ricorda quel momento terribile. I vicini si riunirono e dissero a Nat che non volevano gente indesiderabile nel loro quartiere. Lui rispose sorridendo: «Ah, nemmeno io. E se vedrò qualcuno di indesiderabile a girarsi qui attorno, sarò il primo a lamentarmi». Lui sapeva esattamente cosa intendevano, ma piuttosto che rispondergli male, optò per quella soluzione diplomatica. Sapeva che loro friggevano di rabbia. «Oh, gente nera nel nostro bel quartiere, cosa faremo adesso?» Non è l'unica manifestazione di razzismo che Nat King Cole deve subire. È il 10 aprile del 1956. E Nat si trova a Birmingham, in Alabama, per un concerto all'auditorium municipale. Il pubblico è tutto formato da bianchi. Ci troviamo nel profondo sud degli Stati Uniti e ai neri non è permesso partecipare alle manifestazioni dei bianchi. Anche in un caso come questo, dove la star è un nero. Nat ha fatto un'eccezione. Di solito non accetta mai di esibirsi dove non possono entrare i neri. Proprio mentre sta cantando, viene assalito sul palco da un gruppo di 7 uomini, membri del North Alabama Citizens Council, un gruppo affiliato al Ku Klux Klan. Particolarmente contrari alla musica nera e al rock and roll, i suoi membri prendono di mira il concerto di Cole. La gente incomincia a gridare, molti sono spaventati e nonostante l'intervento risolutivo della polizia, tre uomini del gruppo raggiungono Nat e lo feriscono con un colpo al viso. Intervistato da un giornalista della televisione locale, Nat mostra il suo solito, immancabile sorriso. Pensa che sia un episodio destinato a ripetersi? Oh no, I don't think so. I think... Oh no, non penso. Credo che sia stato un caso isolato e che non si ripeterà. Purtroppo abbiamo dovuto interrompere il concerto perché c'erano molte persone innocenti che potevano restare ferite. Al di là del suo sorriso e di quello che è il suo modo di essere, della sua stessa natura, Nat King Cole sa molto bene che il paese ha bisogno di essere guidato nella sua crescita verso l'antirazzismo e l'uguaglianza di tutti gli uomini. E comprende che il mezzo che può veramente aiutare questa causa è la televisione, che in quegli anni si sta diffondendo per il paese. Oggi un artista nero incomincia a essere accettato. Ha guadagnato una certa statura. L'unico problema lo abbiamo in TV, dove non abbiamo programmi nostri. Che Nat King Cole sia una persona capace di affrontare nuove esperienze col sorriso sulle labbra è un fatto che abbiamo già potuto constatare più volte. Che sia un innovatore nella sua arte, nel suo modo di suonare e poi di cantare, è un fatto acquisito. Meno noto, forse, è che Cole è un vero rivoluzionario ed è il primo artista nero ad avere un suo programma televisivo. Il 5 novembre del 1956, il Nat King Cole TV Show fa il suo debutto alla NBC. Gentlemen, the National Broadcasting Company presents with pride the incomparable Nat King Cole. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thanks a lot. Grazie, signore e signori. Grazie per essere qui con noi. Da ora in poi saremo insieme ogni lunedì sera. È una cosa decisamente insolita, un programma televisivo guidato da un artista nero. In molte famiglie americane i neri non sono i benvenuti. All'improvviso, ecco questo tizio di colore che appare in milioni di case e canta canzoni d'amore. Soprattutto ai maschi bianchi non piace quel tipo che entra nei loro salotti e canta con voce suadente melodie meravigliose che piacciono tanto alle loro mogli. Embrace me, my sweet embraceable you. Embrace me, you irreplaceable you. Si sa, la televisione è il tempio delle merci. È un mercato e il programma che vende di più è il più venduto. Se non ti conquisti la benedizione degli sponsor, il tuo programma avrà vita breve. Questo Nat King Cole lo sa bene. Ma è difficile trovare un'azienda che accetti di legare il proprio nome, la propria immagine a un programma il cui presentatore sia un nero. Tutti gli artisti dello show business, soprattutto gli amici di Nat, accettano di partecipare al suo programma a titolo gratuito per aiutarlo. E anche perché lui, comunque, è un personaggio importante. I suoi dischi vendono milioni di copie. And here he is, my good friend, Frankie Lane. One of our top singers in the country today, the wonderful Miss June Christie. Say hello to Mel Torme. Miss Pearl Bailey. Può apparire come una contraddizione, ma gli ascolti del programma sono molto alti. Il pubblico ama lo show, così pieno di ospiti importanti, e ama Nat, adora il suo stile, il suo modo di suonare e di cantare. Peccato solo che sia nero. Fin quando la gente ascolta le sue canzoni, lo sente cantare ma non lo vede, tutto fila liscio. Se lo va a vedere dal vivo è comunque lontano, su un palco. Ma ritrovarselo in casa, dentro a quella scatola magica che stanno imparando a conoscere, questo è un fatto che spiazza la maggior parte degli americani. Il Nat King Cole TV Show diventa un vero e proprio caso nazionale. If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway that's the best. Get your kicks on Route 66. I magnifici destini. Love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Ai magnifici destini vi stiamo raccontando la storia del magnifico Nat King Cole, che a cavallo tra gli anni 40 e 50 conquista l'America con la sua bravura, la sua classe, piacevolezza. Anche se il razzismo nei confronti dei neri è ancora molto forte, specialmente negli stati del sud, il grande Cole riesce a convivere con questo che è un problema non solo per la gente comune, ma anche per le star come lui. Assolutamente anticonformista, Nat è il primo showman nero ad avere un programma televisivo tutto suo, il Nat King Cole Show. Purtroppo il Nat King Cole Show non trova degli sponsor. Nessuna azienda del paese è disposta a legare la propria immagine a un programma condotto da un nero. E così, nonostante lo show abbia ottimi ascolti, Nat si vede costretto a chiuderlo. L'ultima puntata va in onda il 17 dicembre 1957. Il commento del cantante arriva come sempre accompagnato da un sorriso. Madison Avenue ha paura del buio. La fine del Nat King Cole Show è un brutto colpo per il cantante, ma lo spettacolo deve proseguire, così si dice, no? Nat si attiene alla dura legge dello show business e non è l'unico problema che deve affrontare. Con gli anni 60, il panorama musicale cambia notevolmente negli Stati Uniti. L'avvento del rock and roll modifica i gusti e soprattutto i giovani rivolgono le loro attenzioni verso nuovi sound e ritmi. Tutti i grandi miti della musica, da Ray Charles ad Aretha Franklin, da James Brown a Frank Sinatra, vedono precipitare le vendite dei propri dischi. Anche Nat King Cole ha un genere musicale che molti giudicano superato, ma solo in patria. In Europa, in America Latina, perfino in Giappone i suoi dischi vendono moltissimo. A questo contribuisce anche la sua partecipazione ad alcuni film che vengono tradotti e raggiungono le sale all'estero. Tra questi, il bellissimo film di Fritz Lang con Ann Baxter e Raymond Burr, The Blue Gardenia. Now I'm alone with you, and I'm also blue. She has tossed us aside, and like you, Gardenia. Once I was near her heart. Se il tuo agente ti dice che in Germania, Francia, Spagna, a Cuba, in Giappone vendi milioni di dischi e sei amatissimo e non vedono l'ora di vederti dal vivo, tu che cosa fai? Parti. E questo è quello che fa Nat. Inizia una serie di tournée in giro per il mondo che si trasformano in un continuo trionfo. C'è solo una cosa che non gli va giù. My only objection about traveling is getting there. La mia sola obiezione ai viaggi è il tragitto. Una volta che sono arrivato sto bene. Il brutto del mondo dello spettacolo è viaggiare da una città all'altra. Poi noi siamo tanti. Nelle mie tournée mi seguono 6 persone, oltre alla mia famiglia, quindi la faccenda è complessa. Milioni di persone assistono ai concerti di Nat King Cole in tutto il mondo e ascoltano le sue meravigliose canzoni. Di certo sono molti coloro che ne subiscono il fascino e tanti quelli che si innamorano ascoltando le sue canzoni. Ma c'è anche chi subisce un fascino di tipo diverso. Ascoltiamolo. È Oscar Peterson, grandissimo pianista jazz nero di origini canadesi. Il padre è un grande appassionato di musica e quando escono i primi dischi di Nat King Cole e del suo trio, quelli nei quali Nat suona soltanto e non canta ancora, lui ne fa incetta e li compra tutti. Oscar ha una decina di anni o poco più, ma quei dischi cambiano totalmente la sua vita. Lui voleva fare il trombettista come Louis Armstrong, ma a 7 anni si ammala di tubercolosi e lotta tra la vita e la morte. I spent a year and a month in the Children's Memorial Hospital. Rimasi in quella camera di ospedale per 1 anno e 1 mese. Quando ne uscì, il dottore mi disse: per i suoi polmoni non va nessuno strumento a fiato. Fu un colpo tremendo. Oscar potrebbe disperarsi, ma i dischi del Nat King Cole Trio gli danno una nuova speranza. Forse anche lui potrebbe imparare a suonare il piano. Molti anni più tardi, Nat King Cole sta cantando con un trio, ma non è il suo. È quello di Oscar Peterson. The evening breeze caress the trees tenderly. Oscar Peterson è diventato un bravissimo pianista, uno dei più grandi di tutti i tempi. Ci ha provato a suonare quel piano, si è ispirato allo stile inconfondibile senza tempo dell'inimitabile Nat King Cole e come lui ha formato un suo trio. Ora ha perfino il privilegio di esibirsi con il suo mito. Nat Cole personified to me the epitome of... Nat Cole mi insegnò a essere un leader. Lui aveva questo dono, più di chiunque altro abbia mai conosciuto. Quando cantammo insieme, facemmo un patto. Era uno scherzo, naturalmente. Lui mi disse: io ti prometto di non suonare il piano se tu mi prometti di non cantare. Mi lasciò la parte più facile. Come cantava lui, non cantava nessuno al mondo. Come cantava lui, non cantava nessuno. Una frase che si ripete spesso quando si tratta di Nat King Cole. E pensare che la sua voce, tanto morbida e vellutata, è il frutto di una elaborazione studiata a tavolino, per così dire. Nat, infatti, di natura, ha una voce più tenorile, ma fumando 3 pacchetti di sigarette al mentolo al giorno riesce ad abbassare il tono fino a diventare quasi baritonale. Un vizio, quello del fumo, che si trasforma in uno strumento di lavoro, ma che a lungo andare diventa per lui devastante. Un terribile tumore ai polmoni mette fine alla sua vita a soli 45 anni. Per rendere immortale la sua figura e far conoscere anche alle nuove generazioni la grandezza di Nat King Cole, la figlia Natalie realizza una serie di meravigliosi duetti virtuali con suo padre, che rimane per sempre indimenticabile. Unforgettable. That's what you are. Unforgettable. Though near or far.